Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio e Ave Maria a tutti da Don Leonardo Maria Pompei. Oggi, se Dio ci aiuta, probabilmente riusciremo a concludere, diciamo, definitivamente questo lungo excursus sui 10 comandamenti, entrando un pochino nel merito e nel dettaglio del 10° comandamento, che la volta scorsa abbiamo cercato di introdurre e di cominciare a sviluppare, quindi lo vedremo bene e velocemente nel dettaglio e poi farò probabilmente alcune considerazioni conclusive a proposito di questo lungo cammino che abbiamo vissuto insieme con coloro che sono stati pazienti, diciamo, fedeli nell'ascoltare tutte queste lunghe e impegnative conversazioni. Partiamo subito entrando nel merito su ciò che è l'argomento di oggi, ovvero appunto l'ultimo comandamento del Decalogo, non desiderare la roba da altri, nel cui dettaglio entriamo riprendendo un'importantissima sentenza di San Paolo che abbiamo visto la volta scorsa e con cui abbiamo concluso in parte insomma anche sintetizzandolo un po' in questo aforisma, l'introduzione al tema, cioè l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. La volta scorsa, ma l'abbiamo già fatto nel 7° comandamento, abbiamo precisato che il denaro e le ricchezze non sono un male in se stesse, ma lo diventano in quanto fonte di attaccamento disordinato a causa delle malattie del cuore dell'uomo, conseguenti quest'ultime della colpa d'origine. Quindi abbiamo in questo modo evidenziato l'atteggiamento da cui dobbiamo guardarci, quindi non si tratta di disprezzare delle cose positive, ma di servircene per il bene, senza farcene asservire, di usarle senza diventarne schiavi. Ecco. Abbiamo visto la volta scorsa il retto uso del denaro, no? Comunque dobbiamo guardarci da ben 3 vizi con cui si viola questo comandamento. E sono tutti quanti vizi che concorrono a generare il problema di fondo che questo comandamento vuole arginare, cioè l'attaccamento. San Paolo dice non il denaro è la radice di tutti i mali, ma l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Vi ho anche già detto la volta scorsa e vi prego di ricordarlo, ecco, forse con l'anno nuovo, poi io sentirò la redazione, sarebbe bene chissà anche riprendere alcuni discorsi in relazione ai vizi capitali, ecco, che ci permettono di entrare un pochettino alla radice del cuore dell'uomo, oppure ci sto pensando un po', forse per i giovanotti sarebbe preferibile fare un attimo un po' un excursus in generale, diciamo così, sull'uomo, anche per mettervi a parte, insomma, di alcune conoscenze, a mio avviso fondamentali per ben vivere, che se intercettate in un'età relativamente giovane consentono di mettere mani e di risolvere su gravi e profondi problemi, onde evitare di vivere una vita a marce ridotte quando va bene e quando invece va male, ecco, la situazione è ben peggiore, no? Quindi il denaro e i beni temporali sono e devono sempre restare un mezzo, mai divenire un fine, e un mezzo da utilizzare per il bene oggettivo, non per il semplice soddisfacimento, l'abbiamo visto la volta scorsa, dei propri egoistici e materialistici desideri e interessi. Quindi possiamo e dobbiamo desiderarli, ecco, tanto quanto basta per condurre una vita dignitosa. E qualora eccedessero questo limite, dobbiamo ricordare, vanno usati semplicemente per fare del bene, assumendo i panni e le vesti di amministratori di un patrimonio che Dio ci dà l'onore di gestire per beneficare il prossimo, non di sfruttare a esclusivo e personale godimento. E qualora i beni fossero limitati allo stretto necessario, ci si accontenterà di questo, come scrive sempre San Paolo, limitando ovviamente alle proprie limitatissime risorse il bene possibile da fare al di fuori, ma senza comunque bramare nulla di più. Quindi, i tre vizi contrari a questo comandamento quali sono? Sono anzitutto la cupidigia, poi l'avarizia e poi l'invidia. Partiamo dal primo. La cupidigia consiste nel desiderio eccessivo e disordinato dei beni di questo mondo. Cupidigia viene dal latino cupiditas, che vuol dire desiderio forte, brama, ecco. Quando si ha un desiderio eccessivo e disordinato dei beni di questo mondo, porta l'uomo a fare del denaro e dei beni materiali il vero e proprio dio della sua vita, muovendolo ad accumulare, accumulare e accumulare. Ricordate la parabola evangelica del ricco stolto, che era l'immagine perfetta della cupidigia, mai sazio di nuovi desideri e di nuovi capricci soddisfatti con l'abbondanza dei beni materiali. È a causa di questo peccato e di questo vizio che, per esempio, si lavora tranquillamente la domenica, anche quando non si è costretti, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, da vera e reale causa cogente, quindi necessità. È per questo che si lavora anche giornate intere, trascurando i doveri religiosi, la famiglia, i figli, e ciò semplicemente per avere più piaceri da godere esclusivamente per sé. Quindi il fratello gemello di questo brutto vizio generalmente è la prodigalità, ovvero lo sperpero dei beni di questo mondo in beni e piaceri del tutto inutili e voluttuari, tra cui, per esempio, pensate a chi ha il vizio del gioco, anche d'azzardo. E a causa di questo vizio si commettono tanti altri peccati, tipo per esempio la disonestà, frodi nei confronti del prossimo, mancato pagamento dei debitori dipendenti, eccetera, eccetera. Vorrei fermarmi un attimo prima di andare oltre per qualche piccola nota di commento. Ecco, la domenica, ordinariamente, questo abbiamo già visto, non si lavora. Nostro Signore alla Salette, anzi, Nostra Signora alla Salette, disse con le lacrime agli occhi, parlando a nome di suo figlio: vi ho dato 6 giorni per lavorare e mi sono riservato il settimo e voi non me lo volete concedere. Questo appesantisce il braccio di mio figlio. Dicemmo a suo tempo che un conto, non lo so, chi fa il poliziotto che sta in servizio la domenica, chi fa il medico che sta in turno la domenica, chi fa l'infermiere che sta in turno la domenica. Oggi ci sono le fabbriche, per esempio, a ciclo continuo, per cui non è possibile esimersi dal lavorare la domenica, ma quando questo non è strettamente necessario, il riposo domenicale e non l'ozio domenicale, il riposo domenicale appunto finalizzato a una certa distensione dell'anima, in vista, ecco, di godere della presenza di Dio, di rendere a lui anche il culto che gli è dovuto, è cosa che l'uomo deve fare. Per cui non è certamente una cosa di cui vantarsi, come si fa a volte in giro, dice: io lavoro tutti i giorni e anche la domenica. Certamente che la laboriosità è una virtù, ma come tutte le virtù è tale se è praticata nel giusto mezzo, nella giusta misura. Così un uomo che è sposato, o anche una donna che è sposata, non può stare tutto il giorno a lavorare, tutto il giorno nel senso di lavorare troppo. Io non sto parlando, ovviamente, cercate sempre di capire, no? Suppone un poveraccio che è un pendolare, non so, abita a Napoli e fa il muratore a Roma. È ovvio che questo poveraccio dovrà alzarsi alle 4, dovrà salire sul treno pure prima, per essere sul posto di lavoro alle 7, come gli operai, non lo so cosa dovrà prendere il treno, finisce alle 4, alle 4 e mezza, e ora che torna a casa, questo è uscito dalle 4 della mattina, ritorna alle 7 e mezza di sera. Non sto dicendo queste situazioni, io sto parlando di alcune deformazioni mentali per cui alcuni uomini o alcune donne vivono per il lavoro, anche non essendo strettamente obbligati a farlo. penso per esempio agli imprenditori, penso per esempio ai professionisti. È vero che bisogna dedicare, però non è possibile che tutti i santi giorni ci sia solo quello e si trascurino anche i motivi, come dire, ben più nobili che ci sono nella nostra esistenza, no? Tipo per esempio per chi è sposato, la moglie o il marito e i figli. Cioè, se uno vuole fare una vita dedita completamente in questo modo al lavoro, in maniera da essere assorbito completamente nel tempo, toccherà pensarci bene prima di fare la famiglia, perché questo può diventare incompatibile con i propri doveri elementari. Io ho già visto tanti matrimoni andati a scatafascio per problemi quasi esclusivamente di questo genere. Non è possibile. Ecco, ripeto, è differente la situazione di chi per costrizione o per necessità è costretto ad agire in questo modo, no? È differente, ecco. Io sto parlando sempre di persone che, potendo fare diversamente, non fanno diversamente. Quindi, uno. Secondo, bisogna fare attenzione alla prodigalità, nel senso che noi dobbiamo fare attenzione senza cadere nel pauperismo che abbiamo visto la volta scorsa e senza cadere nell'avarizia, mascherata magari da parsimonia, però la prodigalità è un problema morale, ecco. Quindi noi diciamo nel linguaggio comune chi ha le mani bucate, ecco. Avere le mani bucate vuol dire sperperare i soldi, buttarli, ecco. Quindi è necessario avere un cuore grande e generoso, quindi non tirchio, non spiroccio, non taccagno, eccetera, però bisogna anche vedere come e perché uno è generoso. È sempre il fine in questo caso che specifica la bontà dell'azione, no? Perché essere generoso per fare, cioè non so, essere, come dire, non attaccare ai soldi per comprarsi beni al di sopra delle proprie possibilità, andare a fare debiti, chiamare in causa finanziarie perché io mi devo togliere quello sfizio, questo è ovvio che è un difetto grave, può diventare un peccato molto grave. Ecco, essere invece, come dire, largo e generoso quando c'è di mezzo una situazione in cui sarebbe richiesto un aiuto e magari comporta anche un po' di sacrificio e anche, diciamo, un gesto coraggioso, questo ovviamente è un atto virtuoso, no? Quindi raccomando sempre di chiedere al Signore, questo vale per tutti, il dono del discernimento, perché nei casi concreti non sempre è così netta la distinzione tra virtù e vizio, perché ci sono vizi che si presentano sotto il manto della virtù e virtù che si ammantano sotto il manto di apparenti vizi. Dall'una e dall'altra situazione dobbiamo essere capaci di uscirne con un po' di sano discernimento. Passiamo al secondo aspetto, che è l'avarizia. Questo termine avarizia, come insegna Santo Tommaso d'Aquino, viene dal latino eris aviditas, che significa avidità di denaro. Ora, mentre c'è una leggera sfumatura rispetto alla cupidigia, perché mentre la cupidigia consiste nel desiderare ciò che non si ha per accumulare, accumulare, accumulare, l'avarizia consiste nell'attaccamento morboso al denaro e ai beni che si hanno, privandosene dell'uso, talora anche per cose necessarie, e talora anche per cose necessarie per sé. Ecco, non soltanto per una forma di tirchieria nei confronti del prossimo, perché l'avaro in senso stretto fa una vita meschina, perché non soltanto non dà niente a nessuno, ma non dà niente neanche a se stesso e neanche a quei bisogni che a volte sarebbero leciti e legittimi. Quante storie, specialmente di altri tempi, questo riguardano forse le nostre bisnonne, però ci sono state, di povere bisnonne che dovevano andare a supplicare il marito in altri tempi per dargli qualche centesimo e poter fare un po' di spesa, non certamente per andare alle Emporio Armani a comprarsi il vestito da quelli che oggi sarebbero, non so, 5.000 euro. Ecco. Quindi questo difetto, come noto, ha dato ispirazione a varie celebri caricature, no? So chi di voi conosce l'avaro di Molière, ecco, o il più modesto, ma forse più popolare, Paperon de Paperoni di Walt Disney, ecco, che ne mostrano i connotati assurdi e ridicoli, perché l'avaro conduce veramente una vita completamente fuori, cioè noi diremmo oggi è uno che è fuori di testa, insomma, no? Perché ha risorse impressionanti e a volte si priva anche dello stretto necessario e campa per scroccare il più possibile al prossimo. È pazzesco, ecco. Sappiamo anche, no? C'era Sant'Antonio da Padova, che combatté strenuamente contro uno dei gravissimi figli dell'avarizia dei suoi tempi, che era l'usura, gli usurai, e penso che tutti conosciamo l'episodio che alla morte di un noto usuraio, il santo di Padova affermò che nel petto di quell'uomo non c'era il cuore, ma il forziere con le monete. Gli fu fatta una sorta di primitiva autopsia all'epoca. E fu constatato che veramente quell'uomo, ovviamente questo è un fatto miracoloso, non aveva il cuore, ma aveva il forziere con dentro le sue monete. È terribile una cosa di questo genere, eh? Cioè, capite che quando uno contrae un vizio, queste cose diventano una sorta di malattia mentale, terribile. Di tarlo, cioè hanno le stesse sintomatologie di alcune forme gravi di patologie psichiatriche. L'avaro non pensa altro, è completamente ossessionato. Le scene di Paperon de Paperoni che dentro il deposito si butta, si fa il bagno dentro le monete, che sono chiaramente caricature, però danno l'idea, ecco, di ciò che nel cuore dell'avaro purtroppo c'è. Ecco, e attenzione perché l'avarizia è un peccato dei ricchi, non dei poveri. I poveri possono essere molto cupidi, come abbiamo visto prima, e come vedremo tra poco, possono essere anche molto invidiosi, e spesso purtroppo lo sono. Ecco, ma l'avarizia è un peccato dei ricchi. Ecco. L'avarizia è un peccato dei ricchi. Io ho visto, io personalmente, scene in certi ambienti. Veramente da far venire il voltastomaco. Parlo proprio sincerissimamente, cioè persone ricche sfondate con ville, piscine e servizio di domestici in guanti bianchi, che erano capaci di non pagare, di essere noti in alcuni ambienti per non aver mai pagato in lunghi anni di carriera professionale un caffè a nessuno. Cioè, la cosa pazzesca è che voi capite, no? Cioè, si diventa ridicoli, cioè neanche l'amor proprio, come dire, di non apparire così, no? Dico, facciamo vedere che non ci sono così. Quindi magari una volta all'anno un caffè lo offre a qualcuno, in modo tale che non si dica in giro questo non ha mai offerto niente a nessuno. No! È come il superbo, e quando il superbo diventa patologico, diventa ridicolo, perché fa e dice dell'ego. Io ricordo benissimo, ragazzi, rimasi sconvolto, ero un giovane studente del liceo, quindi penso di poter interpretare magari lo stato d'animo di qualcuno degli ascoltatori. Mi ricordo che mi capitò, stavamo in terzo liceo, stavamo studiando Friedrich Nietzsche, folle, fuori di testa completamente. E folle fuori di testa che come tutti gli autori satanici folli fuori di testa può esercitare un certo fascino e io subii il fascino di quest'autore. Un giorno trovo nello studio di mia madre, uno studio personale, mia madre era una letterata, quindi c'era tutti i libri di filosofia, di latino, di greco, eccetera, una delle opere di Nietzsche, non ricordo come se fosse ieri, si chiama Aurora. E ne lessi la prefazione, scritta dall'autore. La prefazione era qualcosa di assolutamente allucinante, perché quest'uomo, senza nessun ritegno, sapete cosa scriveva nella prefazione? Dice, guardate, Sono circa 2500 anni che l'uomo si è messo a fare filosofia, no? Perché dai tempi, la nascita della filosofia, almeno ai miei tempi, perché qui di questi tempi cambia tutto, diciamo, era tradizionalmente fissata con Talete, stiamo ampiamente al di là del V secolo a.C., e quindi 2500 anni abbondanti. Dice, però, in questi 2500 anni, il senso della frase, se non cito la lettera, non lo ricordo, era questo: sono state dette una marea di stupidaggini, cioè la filosofia è stata quasi completamente inutile. Adesso sono arrivato io e io ho capito cos'è la filosofia e io vi insegno la filosofia, ma con un linguaggio, con una cosa, eh? Cioè questo praticamente diceva chiaramente, cioè 2500 anni di zero, sono arrivato io, spegnete la luce perché finalmente è arrivato chi ci illumina, ma lo diceva in maniera esplicita. Cioè, quello che, ahimè, in molti pensano, ma che hanno il ritegno di non dire esplicitamente, d'accordo? Quindi magari di farlo capire con una certa astuzia, con una certa raffinatezza, no? No, no, lui lo diceva tranquillamente. Quindi, capite, quando il tasso di superbia supera il livello di guardia, cioè, io dico, ma questo è scemo, questo qui, ho pensato, non si rende conto che le sta dicendo grosse, insomma, no? E che quindi palesemente appare come un arrogante, come un superbo, come un presuntuoso. Non se ne rende conto? Perché se se ne rende conto e lo fa, è scemo. Se non se ne rende conto, vuol dire che questo mostro gli ha completamente ottenebrato il cervello. Perché pur essendo tanto intelligente, perché era fuori di testa, ma era comunque molto intelligente, come tutte le persone, anche Lucifero era fuori di testa, ma è molto intelligente, aveva perso completamente il senno, completamente il senno. Così l'avaro a volte fa delle cose folli, cioè da persona stupida, cioè, nel senso che non fa neanche la mossa, non fa neanche finta di apparire diverso da quello che è, ma te la proprio sbatte in faccia in maniera clamorosa, senza vergognarsi. Guardate che io comincio ad averci qualche annetto e più anni passano e più mi risuona dentro la mente, dentro il cuore, una frase assai illuminante della Sacra Scrittura. Se non ricordo male, è un salmo che dice proprio queste lapidarie e testuali parole: un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Cioè, nel senso che vedere tante cose, vedere tante situazioni. Oggi ci intrattenevamo durante il pranzo con alcuni familiari in alcune conversazioni. A volte uno ti dice: io non riesco a concepire le persone che sono prive di buon senso. Benissimo, neanche io. Però tu vedi alcune persone che sono assolutamente prive di buon senso e fanno cose assolutamente sciocche e si danno da sole la zappa sui piedi. E fossero stupide, uno dice: sai, poverino, non ci arriva, non è più di tanto, pazienza, compatiamolo, lascia perdere. No, no, persone che fanno questo genere, gente che ha tutti quanti i numeri per ragionare, li ha anche dimostrati alcuni, laureati, eccetera, eppure a volte agiscono da persone completamente prive di senno. È un grande mistero il cuore dell'uomo. Ed è un grande mistero quello che San Paolo chiama il mysterium iniquitatis, il mistero dell'iniquità, quindi il dilagare, il potere che il male ha sui cuori di tanti uomini che non si lasciano, come dire, prendere, forgiare e trasformare dall'azione sanante e santificante della grazia. Ecco. Ricordo di fare attenzione che purtroppo, nonostante questo vizio sia particolarmente proprio dei ricchi, ahimè, anche su questo nessuno faccia mai l'errore di ritenersi del tutto esente da questo terribile tarlo, perché purtroppo non ne siamo, non ne siamo. Cioè, possiamo essere tutti, ahimè, attaccati al denaro o desiderosi di avere ciò che non abbiamo, quindi cupidi in maniera disordinata, oppure essere disordinatamente attaccati a quello che abbiamo. E ricordo sempre che l'unica terapia per questo problema è la capacità di fare elemosina, quindi di compiere dei gesti di liberalità che ci consentano di raggiungere, di accrescere o di conservare la libertà del cuore. Quando si tratta di portafoglio e di mettere le mani in tasca, a Roma si dice che ci viene a tutti il mal de panza, ecco, perché è sempre argomento abbastanza doloroso. Ecco, gli argomenti abbastanza dolorosi vanno affrontati, come ci insegnano i grandi autori classici, con la tecnica dell'agere contra, fare il contrario di quello che mi verrebbe da fare. Ora facciamo come sempre un piccolo intermezzo, salutando alle ore 17 Maria Santissima con un Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, il terzo vizio connesso con il decimo comandamento è quello dell'invidia, che a differenza della cupidigia, la cupidigia è semplicemente una brama disordinata di avere beni, beni, beni, di averne sempre di più per spenderli per sé. Invece l'invidia è il desiderio dei beni altrui, quindi non dei beni generici, ma dei beni degli altri. Accompagnato, cosa che la rende ancora più antipatica e odiosa, dalla tristezza per il fatto che altri abbiano più di noi, o si possano permettere ciò che noi non possiamo, ovvero in senso, come dire, etimologico, quindi non cioè. Ma oppure addirittura dalla gioia per il fatto che qualcuno abbia meno di noi, oppure avendo di più vada in rovina, vada in disgrazia. Ecco, attenzione che questo moto, in quanto tale, insegna San Tommaso d'Aquino, è proprio direttamente e formalmente contrario alla virtù teologale della carità. Perché la virtù teologale della carità si rallegra delle gioie altrui, anche di queste legate alle cose basse, e si rattrista dei mali altrui. Invece l'invidia si rallegra dei mali altrui e si rattrista dei beni altrui. Quindi capite che in quanto tale costituisce a livello di cuore, quindi di pensieri e desideri, esattamente il formale opposto rispetto alla virtù teologale della carità. Quindi è sommamente, come dire, distaccante e allontanante da Dio, che Dio in se stesso è amore, mentre l'invidia è vizio, come tutti i vizi, ma è vizio che ha molto a che fare con Satanasso. Ricordiamo che l'origine del peccato originale di Satanasso è stata l'invidia, è stato un miscuglio, ma l'invidia e la superbia nel peccato degli angeli ribelli l'hanno fatta da apripista. Il demonio voleva ciò che non aveva e non poteva avere. Ecco, questa è stata la causa della sua colpa, no? E ha anche commesso un peccato grave di invidia a quanto sembra nei confronti della razza umana, dice San Massimiliano Maria Kolbe, che io sono d'accordo con questa sua ipotesi teologica, che i demoni si sono imbestialiti e ribellati a Dio quando il Signore gli ha mostrato la futura incarnazione del suo figlio, cioè che il figlio sarebbe divenuto uomo per mezzo della più pura delle donne. Essendo lui puro spirito appartenente a una natura quindi sommamente superiore, ha avuto invidia dell'uomo. Dice: perché sto figlio di Dio deve diventare uomo e non deve diventare angelo? E io, oltre che a subire l'onta che questo va a diventare uomo, che diventa carne come questi pezzenti che hanno la materia, dovrei anche sottomettermi ad adorarlo in quanto uomo, oltre che come puro spirito divino, qual era il verbo di Dio, e io dovrei venerare come superiore a me la donna che attraverso il suo consenso gli danno la natura umana, ecco, giammai. Quindi capite, non lo so, tra la superbia e l'invidia, se questa ipotesi, come io penso, questa è un'ipotesi teologica, quindi siamo tutti quanti liberi di, perché la Chiesa non ha mai detto in cosa è consistito il peccato degli angeli e veramente neanche il peccato di Adamo e di Eva, però Però io ritengo molto attendibile questa ricostruzione. Voi capite che la molla, forse ancora più grande della superiore, è stata proprio l'invidia. Quindi, alla larga da questa bruttissima cosa che io, tra l'altro, ogni volta che ne parlo, cito sempre una frase di un politico passato adesso all'altro mondo, che era Giulio Andreotti. Voi sapete che Giulio Andreotti, buono o cattivo, il demonio incarnato oppure un santo non compreso, questo non spetta a me giudicarlo, però di fatto questo andava messo tutti i giorni, era abbastanza pratico con gli ambienti, diciamo così, di fede, e lui amava dire che l'invidia è un peccato che non so come, in base a cosa, forse gli hanno detto i suoi amici preti, perché non sta in confessionale, cioè che l'invidia è un peccato che molti commettono ma che ben pochi confessano. Io vi posso assicurare che in confessionale, a parte che oggi ci si confessa poco e male, ma in confessionale di invidia, di avarizia o di roba di questo genere, non se ne parla quasi mai. Sono tutti quanti non invidiosi e tutti quanti distaccati dal denaro. Ma, quindi, peccato che è quello che si vede in giro dalla mattina alla sera, oggi più che mai, ecco, si vede esattamente il contrario. Quindi attenzione a questa brutta bestia. Ora, come accennavo, a differenza dell'avarizia, di cui l'esperienza insegna che è un peccato fondamentalmente dei ricchi, purtroppo l'invidia è spesso ospitata nel cuore delle persone meno abbienti, ovvero in quei poveri che non hanno nulla a che fare con la povertà evangelica. Ricordate quando abbiamo parlato del poverismo, no? E anche un pochettino di... Non è una virtù essere poveri. È una virtù essere evangelicamente poveri, cioè poveri di cuore e di spirito, cioè se tu sei povero ringrazi Dio per il poco che hai e non lo bestemmi e non invidi chi ha di più, ma ti rallegri con lui. Se tu hai di più e sei ricco e sei povero di spirito, non ti attacchi a quei beni e usi le ricchezze che hai per asciugare un po' di lacrime del prossimo e per aiutare le buone cause. Quindi si può essere poveri di spirito sia da ricchi che da poveri. E non lo so se è più facile esserlo da ricchi o da poveri, eh? Perché non è facile, io capisco benissimo, per un povero accettare serenamente dalla mano di Dio, quindi in chiave teologale, la sua condizione di precarietà e lodare tranquillamente il Signore, ringraziarlo e benedirlo e contentarsi, come dice San Paolo, del poco che ha. Non è mica tanto facile. Il fatto che non sia facile, però, non legittima, non giustifica il vizio dell'invidia. Molti poveri, purtroppo, maledicono i ricchi per il fatto che hanno più di loro e possono permettersi una vita spensierata e nel lusso. E questo, purtroppo, voi pensate a quanto l'ideologia comunista, che nella sua formulazione in senso stretto, vi ricordo, che è assolutamente incompatibile con la fede cattolica, ma dico assolutamente incompatibile, tant'è vero che c'era e c'è ancora, ecco, la scomunica per chi c'ha la tessera del Partito Comunista. Adesso il Partito Comunista non esiste più, ma per chi fosse comunista comunista c'è tuttora oggi la scomunica, così come c'è per i massoni, né più né meno, perché sono delle posizioni incompatibili con la fede cattolica, lo erano e lo sono. Questo tanto per fare un pochettino di chiarezza, no? Ma non si possono maledire i ricchi, ecco. Io sono personalmente convinto, questa è una mia ipotesi, una mia idea personale, che molte campagne mediatiche di odio contro alcuni potenti di questo mondo, celebri, di cui non serve fare il nome, ma chi vuole può capire, sono state certamente mosse dall'invidia, palesemente mossi dall'invidia, a prescindere dalle, come dire, caratteristiche più o meno discutibili da un punto di vista umano e morale dei destinatari. Però io ritengo che molti dei loro oppositori e denigratori sono stati mossi da questo vizio. L'invidia di chi è più grande di te, di chi è più potente di te, di chi ha più mezzi di te, di chi ha più soldi di te, di chi è più vincente di te. È terribile questa cosa. E attenzione che i difetti spirituali, adesso ormai siamo al termine dei 10 comandamenti, no? Allora, se tu hai fatto un atto impuro l'hai fatto, punto e basta, perché l'atto impuro si commette, d'accordo? Cioè uno si procura da solo il piacere sessuale, l'ha fatto, punto e basta, non è che può dire che non l'ha fatto, l'ha fatto e basta. Se uno va con una donna di strada, non è che ci può andare a scrivere un romanzo, ci è andato, punto e basta. Però i difetti e i vizi spirituali, uno può sempre dire, a me non mi riguardano, ah, io queste cose non ce l'ho, ma poi bisogna vedere se è vero però. Quindi stanarli, discernerli e avere anche l'umiltà di riconoscerli e di accusarsi non è cosa facile. Infatti vi ripeto, non come Andreotti ma come confessore e come sacerdote, che queste cose non se ne accusa, non voglio dire nessuno, ma praticamente nessuno, eh. Io non ho memoria di aver sentito cose di questo genere in confessionale, lo sanno forse una o due volte, ma lo dico, cioè se io dovessi, forse non me lo ricordo perché ormai sono sacerdote da 9 anni e mezzo, non so quante confessioni avrò fatto, ho perso assolutamente il conto, però nella mia memoria questo non c'è, e il che fa riflettere, no? Quindi attenzione a questa bruttissima passione. Accennavo che è stata purtroppo ampiamente alimentata dalle funeste ideologie basate sul conflitto di classe. Ecco, e la cosa che si deve purtroppo amaramente constatare è che nonostante gli evidenti e tragici fallimenti che si sono verificati laddove la cosiddetta rivoluzione proletaria è divenuta forma di Stato e di governo, e c'è ancora un paese grosso, tipo la Cina, nonché Cuba, dove c'è la bandiera rossa con la faccia, il martello e le stellette, quindi nonostante gli evidenti e tragici fallimenti verificatisi negli stati dove questa forma di governo è divenuta la regola, purtroppo non sono ancora pochi, e a quanto mi consta, ahimè, anche fra coloro che si fecero del titolo discepolo di nostro Signore Gesù Cristo, a credere e lottare per queste menzogne, che a volte hanno cambiato abito esteriore senza però mutare alcunché nella sostanza interiore. Ci sono stati dei problemi molto grossi, ne abbiamo già accennato in altri contesti, anche a livello teologico, sono sorte delle correnti teologiche negli anni 60 e 70 del secolo scorso, note come teologie della liberazione, poi diciamo riunite sotto un'unica bandiera che è la teologia della liberazione, che praticamente hanno ipotizzato un nefasto quanto improbabile, per non dire impossibile connubio, tra alcuni principi del marxismo, in particolare della lotta di classe, e alcuni principi del cattolicesimo e del cristianesimo. Alcuni di questi teologi sono stati, diciamo così, fermati, ecco, in sede dottrinale dalle competenti autorità. Altri, ecco, non voglio fare nomi, però vi racconto la storia, te la racconto per forza, no? Perché capite, dopo, dietro le menzogne presto tardi vengono a galla, no? Hanno cominciato a fare la guerra per i poveri, ecco, dopodiché hanno avuto problemi con i propri istituti religiosi, sono prima tolti l'abito da religioso, poi hanno avuto problemi anche a livello delle altre sfere gerarchie e hanno anche, come dire, smesso di fare i preti, e poi hanno cominciato a girare con la Mercedes. Quindi, teologia della liberazione, poveri, poveri, poveri, poveri. Ecco, questi sono i frutti, che tu eri un religioso e ti sei secolarizzato, poi eri un prete e ti sei spretato, e poi eri l'antesignano, andavi a fare il poverello in mezzo ai poverelli e giri con la Mercedes. Insomma, un itinerario un po', guardate che vi assicuro che c'è, io sto facendo riferimento ad una persona realmente esistente, non faccio il nome per carità, ma gli ascoltatori esperti sanno benissimo a chi mi sto riferendo. È stato un grande esponente di queste teologie, quindi uno che andava per la maggiore, insomma, no? E anche nel suo ambiente religioso, quando io avevo 20 anni, 22 anni, era considerato il teologo della congregazione, insomma, quindi stiamo bene, insomma, se questo è il teologo della congregazione. Quindi attenzione, ecco, e attenzione a questi temi, a mio avviso, molto delicati. Ecco, ritorno, perché di questi tempi, un po' per l'ambiente in cui stiamo vivendo, un po' per alcune linee che sta dando questo pontificato, a volte, a mio modestissimo parere, si fanno alcuni equivoci. Ecco. Dimentichiamoci del fatto che i ricchi sono brutti e cattivi per il fatto di essere ricchi e che i poveri sono belli e buoni per il fatto di essere poveri. Ecco. Perché questo non è vero. È verissimo, e io sono d'accordissimo, d'accordissimo, che tutti i figli di Dio, tutti, è bene che abbiano uno stile di vita moderatamente sobrio. Moderatamente sobrio vuol dire che la sobrietà va sempre commisurata, come dire, il proprio stato di vita. Ecco, cioè, la sobrietà di un avvocato è diversa dalla sobrietà di un prete, è diversa dalla sobrietà di un religioso, è diversa dalla sobrietà di un disoccupato, d'accordo? Ecco, perché un avvocato per fare il lavoro che fa c'ha bisogno dello studio, c'ha bisogno della segretaria, quindi c'ha chiaramente, non può andare in tribunale in pantaloncini, deve andarci in giacca e cravatta. Certamente la giacca e cravatta se la può prendere all'Emporio Armani o si può prendere una giacca e cravatta decente senza spendere delle cifre esorbitanti, no? Ecco, così come insomma un sacerdote la macchina ce la deve avere oggi, cioè non è un bene di lusso averci la macchina. Certamente io personalmente sono contrarissimo. Ai macchinoni, io sono contrarissimo ai macchinoni, per tutti, per preti, per chiunque, perché una macchina decente che funzioni, che cammini, che non te lasci per strada, ma che svolga il compito che deve compiere, non è bene, ma questo lo dice già il diritto canonico, lo dice già il Concilio Vaticano II. I sacerdoti devono condurre un tenore di vita sobrio e dignitoso, rifuggendo da tutto ciò che potrebbe apparire superfluo e eccessivo, ovviamente tenuto conto della situazione dei più moderni, cioè un prete non può non averci il telefonino oggi, cioè non è un lusso il telefonino. E se è un prete come il sottoscritto che lavora molto con i computer e nel web, con le attività multimediali, dovrà averci computer e può anche avere un telefono che abbia una possibilità di lavoro rapido con queste cose. Capite? Quindi sono sempre discorsi che si fanno dentro, cioè tu puoi avere tanti beni quanti ti sono necessari per compiere dignitosamente la tua missione. Ecco, e qualora si tratti di beni che in se stessi sarebbero costosi, ma sono necessari alla tua missione, prendili tranquillamente, chiaramente senza abusarne, senza andare nel superfluo, nel non strettamente necessario. Ecco, questa è la sobrietà evangelica a cui tutti dobbiamo puntare, senza evitare tutti quanti gli sprechi. Questo è assolutamente necessario. Evitare tutti quanti gli sprechi qui, e qui mi rivolgo a tutti, per esempio a tavola, nelle cose da mangiare. Le cose da mangiare non si buttano, ragazzi e ragazze carissime. Non voglio adesso fare il discorsetto moralistico, però la sobrietà consiste anche che se tu hai avuto dei doni da parte del Signore, non li butti, perché se tu butti le cose da mangiare è peccato. Non si fa. Nei libri di Gloria Polo, che io ho conosciuto personalmente, venuto da qui, si legge che un chicco di riso sprecato colpevolmente, il Signore te ne chiede conto. Io ho raccontato tante volte, porto in giro il cane qui da queste parti, a volte il cane esce e diventa una balena che si fa certe mangiate. Io ho trovato pagnotte intere di pane buttate vicino ai secchioni della immondizia. Queste cose non si possono fare e non si devono fare. Tu stai attento e prendi il necessario, ma non butti niente. Cioè, se una cosa avanza, la ricicli, la ripassi, e qui le mamme di casa si devono un attimo industriare. Questo non è essere tirchi, ecco, attenzione, questo è essere evangelicamente poveri. L'evitare gli sprechi di consumi completamente inutili, d'accordo, lasciare in giro per casa le luci accese, eccetera, eccetera, sono tutte quante delle cose che non vanno bene, non vanno bene. E non si tratta di essere moralisti, sono cose che vanno sempre amministrate in un certo modo, quindi con una certa libertà di spirito e non perché sia avari. Io non è che spengo tutto perché Perché l'avaro fa le stesse cose della persona che è sobrio, eh? Cioè l'avaro sta sempre a tenere, cioè non accende una lampadina perché costa e perché poi arriva la bolletta. Invece un figlio di Dio non accende una lampadina oppure la spegne quando è finito necessario, semplicemente perché conduce un tenore di vita povero, quindi che non spreca le cose inutilmente, cioè i soldi sono un bene, non li spreco, se mi avanza qualche soldo non è che poi me l'accumulo. Vorrà dire che darò 2 euro in più in elemosina se ho risparmiati in energia elettrica, no? Ecco, quindi c'è questa, come dire, elasticità e capacità di vivere decentemente il rapporto con i beni di questo mondo in maniera evangelica. Ecco, questo è il modo evangelico e sotto questo punto di vista è non solo profondamente accettabile, ma è profondamente da seguire. Tutto il discorso che riguarda la sobrietà e l'essenzialità cristiana, così come anche tutto il discorso, peraltro già affrontato non soltanto in questo pontificato, ma anche da altri, contro il carrierismo ecclesiastico, che è un'altra forma di caricatura, insomma. No? Noi siamo venuti, cioè, una persona che si offre al Signore, che abbraccia la vita sacerdotale, lo fa semplicemente per servire, senza nessun tipo di aspirazione o di ambizione, di dove il Signore ti mette. Cioè, una parrocchia vale l'altra, una diocesi vale l'altra, se sei vescovo un incarico vale l'altro, eh. E se rimani tutta quanta la vita nell'ultima parrocchia come il santo curato d'Ars, che stai in un villaggio di 200 persone, fatti il parroco lì, va benissimo, va. Cioè, non c'è nessun problema, giustissimo, d'accordo? Vanno tutte benissimo queste cose, no? Ecco. A mio avviso non è sobrietà sacerdotale e non è povertà il fatto che un prete vada in giro vestito mimetizzato con un garzone, quindi con i pantaloni e la camicetta, anche se, come spesse volte accade, l'ho detto in anche altre circostanze, molti miei confratelli su questo punto magari sono ingannati da una errata, come dire, concezione sia dell'umiltà e della sobrietà, sia anche del fatto che non si vorrebbero mettere distanze con i laici, a apparire troppo lontani, eccetera, eccetera, no? Perché spezzo una lancia, insomma, anche attraverso tante situazioni. Io so per certo, io voglio tanto bene ai miei confratelli sacerdoti, che molte persone vivono questa dimensione, ingannate da queste che a mio avviso sono idee errate, cioè, d'accordo? Perché un sacerdote è bene che si presenti come sacerdote e preferibilmente. Questa è un'opzione personale, insomma, oggi la Chiesa raccomanda di portare almeno il clergyman, quindi almeno un segno di riconoscimento, ma preferibilmente l'abito ecclesiastico, cioè che dà anche, come dire, un tono soprannaturale alla figura del sacerdote, quindi mostrandolo un po' come uomo di Dio, cosa che non basta che il sacerdote si metta la tonaca per essere un uomo di Dio, di avere le virtù dell'uomo di Dio, no? Però può essere un aiuto sia per lui, sia per le persone che lo incontrano a concepire bene questo ruolo, no? Che non vuole essere porre una barriera o una distanza, ma vuole essere semplicemente un prendere coscienza di chi si è e cercare di adeguarsi il più possibile a questa impresa molto molto alta, che è appunto essere uomo di Dio, quindi portare Dio e solo Lui, non te stesso, alle persone. Allora, Gesù nel Vangelo ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto vi sarà dato. Quindi, concludendo il decimo comandamento, e poi una parola a conclusione dei 10 comandamenti, sul decimo comandamento dobbiamo dire che i discepoli di Cristo hanno a cuore non i soldi e i beni di fortuna, ma i beni interiori, che sono i più grandi, e la salvezza delle anime. Sono fermamente convinti di avere un padre in cielo che conosce le necessità anche materiali dei suoi figli sulla terra e che ad essi provvede. Se hanno più del necessario, il Signore me lo dona, benissimo, sono pronti a condividerlo liberamente, non forzatamente con espropri proletari, e comunque mantengono sempre quella pace del cuore, quel distacco, quella liberalità che consente di vedere redente anche queste realtà, che sarebbero tanto pericolose per il cuore dell'uomo, ecco, se non ben amministrate. trasformandole, e questo è il compito anche di chi ha ricevuto qualcosa dal cielo, da possibile e a volte anche prossima e grave occasione di peccato, e strumento di divisione, di odio tra i fratelli, pensate a quanta gente litiga per l'eredità, eccetera, eccetera, in fonte di benedizioni per sé e per gli altri. E con questo abbiamo concluso il 10° comandamento. Ecco, mi restano, vedo dal tempo, 5 minuti per una piccola... un piccolo excursus conclusivo sui 10 comandamenti. Il cammino dei 10 comandamenti, se abbiamo ben compreso, è un cammino di gioia e di libertà. Sta per arrivare il Natale. Cioè, il Signore è sceso in campo, espressione oggi molto popolare, già dai tempi di Mosè, perché nella loro formulazione primigenia i 10 comandamenti risalgono al Sinai, semplicemente per scendere in aiuto al cuore dell'uomo, per dargli, cioè, dei criteri di discernimento certi e ben definiti, onde distinguere il bene dal male. È un servizio che il Signore ha fatto a noi. Non è che se io osservo i comandamenti ricevo qualche limitazione, oppure se li metto in pratica faccio un favore a Lui, come se Lui mi desse, ecco, quella che qualche autore ha chiamato una legge eteronoma, cioè una cosa che è completamente al di fuori, estranea a me, imposta come una specie di gioco che io devo prendere o lasciare, e come uno schiavetto mettere in pratica senza fiatare, per fare contento il Padre Eterno e avere così da Lui il premio, mentre se non lo faccio riceverò un sacco di bastonate perché ho disobbedito a quello che Dio mi aveva detto. Ecco, questa è una visione un pochino infantile e puerile dei 10 comandamenti, che spero che queste conversazioni abbiano contribuito ad abbattere. Già nell'Antico Testamento, se uno apre il libro del Deuteronomio, il libro dell'Esodo anche, dice: guarda, io pongo dinanzi a te, dice il Signore, la vita e il bene, la morte e il male. Quindi ti ha dato questo criterio di discernimento, questo criterio di demarcazione. E il Signore dice: scegli la vita, ma perché? Perché sia felice tu e la tua famiglia e i tuoi figli. Perché sia felice tu e la tua famiglia e i tuoi figli. Vi ricordo, domenica scorsa è stata la Domenica Gaudete, la splendida prima lettura di domenica scorsa, terza domenica d'Avvento del ciclo A. Ci sarà una via, la chiameranno via santa, e quelli che cammineranno su questa via santa sperimenteranno cosa vuol dire già su questa terra la parola felicità, grida di giubilo, li seguiranno e fuggiranno tristezza e angoscia. La via santa, ecco, il cammino dei 10 comandamenti è il cammino della vita. C'è un salmo bellissimo, credo che sia il Salmo 15, mi indicherà il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Che i 10 comandamenti siano il sentiero della vita, ce lo dice Gesù nel Vangelo. Quando incontra il giovane ricco, che gli dice, guarda, dice: maestro, cosa devo fare per entrare nella vita eterna? Maestro buono. E lui gli risponde: mi chiami buono? Guarda che soltanto Dio è buono. Se vuoi entrare nella vita, proprio così, osserva i comandamenti. Chi osserva questi comandamenti, questi comandamenti sono quanto basta per vivere in pace, in grazia, felici, per avere da Dio tutte le benedizioni di questo mondo e per non avere nessuna paura dell'inferno. Santa Teresa d'Avila dice: per andare in paradiso e per fuggire all'inferno basta soltanto mettersi davanti i 10 comandamenti bene e osservarli tutti e bene, dal primo all'ultimo. Attenzione, tutti e bene. Perché, come dice Gesù sempre nel Vangelo, chi è fedele nel poco è fedele nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto nel mondo. E chi osserverà questi miei precetti, anche minimi, e li metterà in pratica, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Chi invece ne trasgredirà anche i minimi sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. E ricordate che la mia venuta non è certamente servita ad abolirli, ma a completarli. E di questi non passerà nemmeno un trattino ed uno iota fino alla fine del mondo. Questo lo troviamo nel capitolo 5 del discorso della montagna. Ecco, abbiamo visto anche durante questo excursus come specialmente su alcuni comandamenti, per esempio il sesto, la venuta del Signore e quindi il Nuovo Testamento abbiano davvero dilatato e completato l'ambito di applicazione, quindi passando dal semplice adulterio a tutto ciò che ha a che fare con la virtù della purezza. Ecco, io auguro a tutti una buona pratica. Non auguro ancora un Santo Natale, perché dalla redazione mi dicono che martedì prossimo, vigilia di Natale, saremo regolarmente in onda e penso che la prossima volta, come sia doveroso, prima di aprire un nuovo capitolo, ecco adesso con queste vacanze di Natale, penso che sia bene fare un excursus proprio su alcuni aspetti del Natale, ecco, che ci terrei a condividere con i miei giovani ascoltatori. Do la mia benedizione a tutti, vi do appuntamento se volete la prossima settimana. Ave Maria.